Bevi, bevi, compagno, se no t'ammazzerò. Non m'ammazza, compagno, che adesso beverò. Mentre il compagno beve, la canteremo, la canteremo. Mentre il compagno beve, viene l'anarchia, un bel pranzo sa da fare, e tutta vitella e manzo, seduimo da magna, seduimo da magna, e frittatel demoniche, e preghi e frati speziati, e l'ossa desti maiali, ai cani sa da da, ai cani sa da da. E le chiese so botteghe, e libre di so mercanti, e vendono madonne e santi, e a noi ci credono vecchi poveri e ignoranti, vecchi poveri e ignoranti. Ma vedi questi, oh, la la la la la la la la, la canzona che ammazza i preti, la la la la la la, mazzamone che preti e fra, la la la la la la la la la, la canzona che ammazza i preti, la la la. Grazie. Questo è uno stornello, vediamo se lo riconoscete. e chi la suona. E quando che suona pare che te minchiona, e fiore de guazza fiore, fiore de guazza, e li sgari al cuore sai chi la ripezza. La morte quando arriva e che t'ammazza. Siamo la ciurma nemica d'una galera infame, su cui ratta la morte, miete per lenta fame. Ma gli orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, ma sulla tolda squallida urla l'ascolto ignora. I nostri dì si involano tra fetide carene, siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene, e sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo, ma sulle nostre luci steso è un funereo velo, e torme di schiavi adusti chini a gemer sul remo, spezziam queste catene, o chini a remar morremo. Cosa gementi schiavi, questo remar remare, meglio morir tra i flutti sul biancheggiar del mare. Remiam finché la nave si schianti sui frangenti, al tele rosso nere sul limitar dei venti, e sia pietosa coltrice l'onda spumosa e ria, ma sorga un dì sui martiri il sol dell'anarchia. E su schiavi allarmi, allarmi, l'onda gorgoglia e sale, tuoni, baleni e fulmini sul galeon fatale. E su schiavi allarmi, allarmi, remiam col braccio forte, giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte. Giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte. Asta umana. Asta. basta man. La povera Cecilia ha perso il suo marito, l'hanno messo in prigione, lo vanno fa mori. Salve sor capitano, una grazia vo da te, la grazia è bella e fatta, venghi a dormire con me. E quando che fu alla mattina, s'affaccia allo barcone e vede il suo marito che stava a pennolone. E grazie sor capitano, m'avete ben tradito, a me torto l'onore, la vita mi marito. E zitta Cecilia, zitta, non dite male di me, sino le carceri scure io ve farò vedere. Sì, le voglio vedere, sì, le vederò. Cecilia cava lo spillo e il capita ammazzo. E pia la rocca e il fuso e metti da fila. La povera Cecilia al San Michele va. La povera Cecilia a San Michele va. Aspetta. Vai. Prossimo pezzo è una cover di un gruppo che ci piace molto, i Godzilla e le tre bambine coi baffi, di cui Caciotta pure è bassista, perché come diciamo sempre Caciotta ha circa 37 gruppi. Se voi andate a un concerto guardate bene il bassista, perché potrebbe essere il Caciotta. Grandi Godzilla! Non compra il pan, compra dinamita, vedrai che grande festa si farà. Quando faremo un gran bel rogo di questa merda di città. Non compra il pan, compra dinamita, così la guardia più non riderà. Quante caserme e carceri, tutto in aria salterà. Compra il pan, compra dinamita, vedremo il sindaco che faccia fa. Quando si sveglierà al mattino e con un candelotto in culo esploderà. Non compra il pan, compra dinamita, chissà se il prete ci perdonerà. Quando il suo Cristo scenderà dalla croce e per lo spavento fuggirà. Non compra il pan, compra dinamita, vedrai che grande festa si farà. Di chiese e tribunali, di preti e cardinali, più nessuna traccia resterà. Oh. Thank you. Nel fosco fin del secolo morente, sull'orizzonte con un poeta esolato, già spunta l'alba minacciosamente del diffatato. Già spunta l'alba minacciosamente del diffatato. Urlan l'odio, la fame ed il dolore, mille e mille facce ischeletrite, ed urla col suo schianto redentore la dinamite, appunto, e urla col suo schianto redentore la dinamite. Siamo pronti e sul selciato d'ogni via, spettri macabri del momento estremo, sul labbro il nome bello d'anarchia insorgeremo, sul labbro il nome bello d'anarchia insorgeremo. Per le vittime tutte invendicate, là nel fragor dell'epico rimbombo, penseremo sulle barricate, piombo con piombo. Compenseremo sulle barricate, piombo con piombo. E noi cadremo in un fulgor di gloria, schiudendo all'avvenir novella via. Dal sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia. Dal sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia. Grazie. Grazie. Bello, bello. Oh, il prossimo pezzo si chiama Frigida. È uno stornello femminista che trovate su YouTube, cantato da una donna dalla voce fantastica, che però non si sa chi è, perché rimane anonima. E abbiamo trovato questo stornello, appunto, cantato negli anni 70, ma sempre parecchio attuale. E mo te devo di che sta canzone a qualcheduno può sembra volgare, ma qui c'è l'impellenza di parlare. E si d'ste parole famo uso, non te scandalizza, non fa mermuso. E va l'han fatta sorgere da Adamo nel costato, e allora se credeve no d'avecce dimostrato con questa assurdità detta all'umanità che partorì un uomo senza tanta difficoltà. E poi come se questo non bastasse, hanno presto diffuso tra le masse che tutto quel che è sesso è un gran peccato, e solo chi procrea viene graziato, con questo ci hanno ancora sistemato. E poi ci hanno detto frigide perché non godevamo, ma poi si è risaputo, la colpa è d'Adamo, ci ha sempre voluto usà e non ci ha mai fatto amà come avrebbe voluto questa nostra sessualità. Con poche cose ci hanno schiavizzato, capitalismo e patriarcato, e poi per facce sta sempre più buone ce vanno di che gli invidiamo il bene, e il sesso nostro l'hanno condannato. Ma adesso la clitoride va assai rivalutata, mentre la chiesa e l'uomini l'hanno sempre ignorata. Ma noi non ci stiamo più, no, non ci stiamo più a fassa d'opra ancora come un orologio a cucù. Il bene non può esiste veramente, se poi sei sopraffatta dall'amante, e se vuoi vive già da donna vera, devi spezzare dei ruoli la barriera, che del maschismo è sempre la bandiera. Vogliamo essere libere, insieme liberare quelle che come noi sono state qui a penare. Forse una novità può essere realtà, unimo se ma subito una forza noi siamo già. Allora, il prossimo pezzo è un pezzo di fine Ottocento addirittura, che abbiamo riscoperto. Si chiama Il canto dei malfattori. È un pezzo decisamente lungo, però decidendo dove tagliarlo non riusciamo a tagliare niente perché ci piace il testo, ci piacciono le parole così come sono, per cui ve lo facciamo ascoltare tutto. Mettetevi comodi. E buon ascolto. Solo come i Pink Floyd praticamente. Ai grilli ed ai lamenti di noi plebe tradita, la lega dei potenti si scosse impaurita, e prenci e magistrati gridaron col signore che siamo degli arrabbiati e rudi malfattori. Della fretta sorgere o sol dell'avvenir, vivere vogliam liberi, non vogliam più servir. Natura come un madre a ognun lega i suoi frutti, e caste ingorde ladre ruban quel che è di tutti. Che in comun si viva, si goda e si lavori, tal è l'aspettativa che abbiamo noi malfattori. Da fretta sorgere o sol dell'avvenir, vivere vogliam liberi, non vogliam più servir. Chi sparge l'impostura avvolto in nera veste, chi nega la natura sfuggiam come la peste. Sprezziam gli dèi del cielo e i falsi lor cultori, del ver squarciamo il vero, perciò siamo malfattori. Detta fretta sorgere o sol dell'avvenir, vivere vogliam liberi, non vogliam più servir. Amor ritiene uniti gli affetti naturali, e non domanda riti né lacci coniugali. Noi da profan mercati grisor vogliamo gli amori, e sindaci e curati ci chiamano malfattori. Detta fretta sorgere sol dell'avvenir, vivere vogliam liberi, non vogliam più servir. Divise a confrodi città, popoli e terre, da qui gli ingiusti odi che generano le guerre. Noi che seguendo il vero gridiamo a tutti i cori che padre è il mondo intero, ci chiamano malfattori. Detta fretta sorgere o sol dell'avvenir, vivere vogliam liberi, non vogliam più servir. Leggi dannose grame di frode alti strumenti, seconda sol le brame e i ricchi prepotenti. Dampene a chi lavora e onore a sfruttatori, conferma un poscia ancora che noi siamo i malfattori. Detta fretta sorgere o sol dell'avvenir, vivere vogliam liberi, non vogliam più servir. La Chiesa e lo Stato, l'ingorda borghesia, contendono al creato di libertà la via. Ma presto i dì verranno che Papa, re e signori coi birri lor cadranno per mano dei malfattori. Detta fretta sorgere o sol dell'avvenir, vivere vogliam liberi, non vogliam più servir. Allor vedremo sorgere il sol dell'avvenir, in pace potrem vivere e in libertà gioir. smanda. Hai che difenderla con fe e con valor, alta la bandera rivoluzionaria che del trionfo sin cessar non gliela impos. Alta la bandera rivoluzionaria che del trionfo sin cessar non gliela impos. Entia pueblo caro a la battaglia, hai che derrojar all'area fior, alla facciamo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo è uno stornello romano. Per questo voglio anche ricordare la mitica Gabriella Ferri, veramente la voce più emozionante che io abbia mai sentito in vita mia. E passino da tante cortellate, per quante messe ha detto l'arciprete, per quante messe ha detto l'arciprete, per quante volte ha detto rade frate, la ra la la ra la la ra la la, la ra la la ra la la ra la la la, la ra la la ra la la ra la la. La ra la la ra la la ra la la. Cantate, cantate. Er bene che te voglio, nu lo dico, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, te vorrebbe vedere a ponte impiccato, con la testa mozzata e pepanico. La ra la la ra la la ra la la. So tre Severina, lo sapete, non serve bello mio che ci arrugate, non serve bello mio che ci arrugate, so cortellate quante ne volete, la ra la la ra la la ra la la, hey, la ra la la ra la la ra la la, la ra la la ra la la ra la la, la ra la la ra la la ra la la. Sono mille anni che venghi Natale, per farmi una magnata de dorone, per farmi una magnata de dorone, per farmi una bevuta in del boccale. La la la la la la la la la la. La ra la la ra la la ra la la la. La ra la la ra la la ra la la. E so mille anni che se facci notte, per andar via da sola e da sta parte, per andar via da sola da sta parte, m'è venuta la smania della morte. La ra la la ra la la ra la la, la ra la la ra la la ra la la, la ra la la ra la la ra la la, la ra la la ra la la ra la la, e la ra la la ra la la ra la la, la ra la la ra la la ra la la, la ra la la ra la la ra la la, se la ra la la ra la la ra la la. Ma grazie. Questo stornello ve lo dovete immaginare proprio come un dialogo fra due donne, una trasteverina e una montisciana. Erano due quartieri che ovviamente erano in competizione fra di loro, perché sembra che proprio l'essere umano faccia una difficoltà incredibile ad andare d'accordo col proprio prossimo, e quindi praticamente c'erano queste sfide tremende. Però invece di essere a suon di coltellate, come poi spesso anche si usava, prima, il passo prima era proprio a suon di stornellate davanti a tutti, facendo fare ovviamente all'avversario una figura terribile, e vinceva chi usciva insomma meno devastato da questo, da questa sfida cantata. Immaginatevela così, due donne che si parlano fra loro. Io volevo portare la mia testimonianza. Io ho avuto un prozio che è morto per una stornellata in faccia, perché quello del quartiere vicino si è incazzato e l'ha presa a stornellate. Insomma, era un problema. Erano tremendi, eh? Vai, vai, vai, ci siamo. A Roma, Roma, le belle romane, ce so soltanto le trasteverine, la ruba carisol, le montisciane, la ruba carisol, le montisciane. Sora menica e sora menica, oggi è domenica, la sece sta. Sora menica e sora menica, oggi è domenica, la sece sta. Poro, poro, poro, bom. Semo trasteverine e non tremamo, paura non c'avemo e de nisuno, c'avemo buona lingua e meglio mano, e c'avemo buona lingua e meglio mano. Sora menica e sora menica, oggi è domenica, la sece sta. Hey, sora menica e sora menica, oggi è domenica, la sece sta. Boro, boro, boro, bom. Semo le montisciane, semo donne, che andiamo con lo spillo in tra le gonne. Semo più forti noi delle colonne, hey, semo più forti noi delle colonne. Sora menica e sora menica, oggi è domenica, la sece sta. Hey, sora menica e sora menica, oggi è domenica, la sece sta. Barabarabarabam. Siete una banderuola e de castello, avete da del cuore a questo e quello. Una botta la cercate de cortello, ehi, una botta la cercate de cortello. Sora menica e sora menica, oggi è domenica, la sece sta. Ehi, sora menica e sora menica, oggi è domenica, la sece sta. Parabarabarabam. Per cuore mio l'ho dato a chi me pare, l'hanno tenuto tutti come un fiore, l'hanno tenuto tutti come un fiore, e il vostro si è appassito nel cantone. Ehi, sora menica, e sora menica, oggi è domenica, la sece sta. Sora menica, e sora menica, oggi è domenica, la sece sta. Ciao, grazie Radio Default, grazie Genzano.